English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Siamo quasi pronti per festeggiare l'arrivo del 2012, ma in attesa di prepararci al cenone è il momento del nostro appuntamento settimanale con English 24. Anche questa settimana ci dedichiamo agli incontri più belli ed emozionanti che abbiamo avuto la fortuna di fare in questa stagione. Registi, cantanti, scrittori, insomma, soprattutto grandi personaggi della cultura anglosassone con cui abbiamo chiacchierato nelle ultime settimane. Partiamo da Don Hahn. Il suo nome forse ci dice poco, ma basti sapere che lui è un grande produttore hollywoodiano di film animati. Parliamo dei maestri della Disney. A lui si deve ad esempio Il Re Leone e anche Il Ritorno del Re Leone in 3D. Perché questa scelta? E vedremo altre versioni in 3D di storici film d'animazione? Ci ha risposto lo stesso Don Hahn al Festival Internazionale del Film di Roma, dove ha presentato proprio questa avventura tridimensionale. There's some things that are made for 3D. You would think the shots in the film were longer. It was filmed with a lot of epic scale and the African savanna, and it felt like it was very grand. And so all that played well into 3D, and in the end, I think makes the experience much, much better. Next is Beauty and the Beast, which we've already worked on and is done and looks beautiful in 3D. And then we're talking about Little Mermaid. So mostly the recent films, because it's important to me to have the original filmmakers involved. So you probably won't see Cinderella in 3D, but definitely Beauty and the Beast is coming up next. Ecco qui, allora abbiamo già l'anticipazione, il prossimo sarà The Beauty and the Beast, La Bella e la Bestia, ma quali sono le doti che deve avere un film per rendere bene in 3D? Quali aveva ad esempio Il Re Leone? E qui c'è proprio una traduzione letterale, anche noi lo diciamo, no? Some things are made for 3D, ci sono cose che sembrano fatte apposta per, ecco, noi aggiungiamo quella apposta, però l'idea è quella che ci sono dei film, dei cartoni animati in questo caso, that you would think, e qui noi dobbiamo, qui loro è un condizionale che noi tradurremmo con che ti viene da pensare, quindi ti viene da pensare that our shots in the film are longer, quindi ci sono queste lunghe sequenze nei film, tutte cose che se ci pensiamo sono quello che poi appunto rendono un film ideale da trasporre da una apparenza piatta a quella che invece è la tipica apparenza in 3D, quindi questa epic scale, una scala epica, questo African Savannah, beh, Lion King aveva questi scenari che si prestano, dice Don Hahn, they played very well into 3D, cioè questa è la traduzione di si prestano, to play very well into something, quindi si prestano molto a essere trasformati in 3D. E quindi questo fa una experience much much better, molto molto migliore, e appunto il successivo, next, is Beauty and the Beast, quindi vedremo questo successivamente in 3D. Sì, questo qui lo sottolineiamo sempre, questo uso di to look beautiful, perché letteralmente to look naturalmente guardare, poi sappiamo che è un phrasal verb che possiamo usare e manipolare in tanti modi, però to look beautiful vuol dire naturalmente non vedere bello, ma essere bello, quindi you look beautiful, you look nice o you look ugly. Sembri, insomma, non sei bello, ma questo film, It Looks Beautiful, appunto, è venuto particolarmente bene in 3D. Non è solo una questione di quanto un film sia bello, ma anche quanto i produttori originali possano essere d'accordo. È importante che siano coinvolti i produttori originali. Sì, lui dice proprio per me, quindi it's important to me, e qui sappiamo che appunto in inglese si dice è importante a me, mentre noi diciamo è importante per me, comunque it's important to me, che cosa? To have the original filmmakers involved. Quindi lui vuole che in questa trasposizione da 2D a 3D siano presenti e poi coinvolti quanto a loro va di essere coinvolti gli original filmmakers, cioè quelli che l'avevano ideato, e quindi scherzando dice you probably won't see Cinderella in 3D. Cinderella naturalmente è Cenerentola, che è uno dei primissimi cartoni animati di Disney, ecco, in questo caso probabilmente gli original filmmakers sono o troppo anziani o forse proprio non ci sono più, e allora però insomma chissà. Passiamo ora a un altro incontro. Sempre al Festival di Roma, all'inizio di novembre, abbiamo incontrato un giovanissimo attore, Thomas Brodie Sangster. Ce lo ricordiamo bambino in film come Love Actually o Nanny McPhee, ma ora ha quasi 22 anni e ha interpretato un film molto delicato e persino divertente, anche se su un tema drammatico, quello di un adolescente malato di cancro in Death of a Superhero. When I got the part, I read the script a few times and I wanted to make sure that in the end result you were watching a real person, and so I